prigionieri delle tenebre. Arcangeli, custodi delle azzurre federe, armatevi per la battaglia. Amici, allora il nostro libro di catechesi è intitolato Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana, su Garco Edizioni. Potete trovarlo in tutte le librerie cattoliche. Ieri abbiamo spiegato il titolo, abbiamo rivendicato la radice biblica di questo titolo, nel senso, prima di tutto dalla sostanza, perché Satana, come appare per esempio nel libro del Genesi, si manifesta come colui che inganna. Ricordate, no, l'interrogatorio che Dio ha fatto ad Adamo ed Eva dopo il peccato originale? E l'uomo come si difende? La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Allora il Signore Dio, dice sempre il libro del Genesi al capitolo 3, versetto 12, allora il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Ecco, la parola ingannata e sta a indicare appunto l'attività di Satana, quello di ingannare. Come inganna Satana? Presentando il male come se fosse un bene per l'uomo. La radice biblica di questa espressione falsario poi l'abbiamo giustificata anche col Nuovo Testamento, laddove Gesù chiama appunto Satana omicida e mentitore fin dal principio. È quindi colui che falsa la realtà, non è colui che dice bugie, è colui che fa qualcosa di molto radicale, falsa la realtà. Dice che le tenebre sono luce, dice che il male è bene, non è una cosa da poco. Soprattutto dice che il male ci fa bene. E questo l'inganno tremendo di Satana. Dice che il male ci fa bene, mentre il male ci distrugge. Dice che ciò che per noi è morte in realtà è vita, invece naturalmente staccandoci da Dio ci dà la morte eterna, e già in questa vita ci dà la disperazione. insomma, ci promette la felicità, Satana ci dà la disperazione, ci promette le tenebre, ci promette la luce, ci dà le tenebre, ci promette la libertà e ci dà la schiavitù e così via. Ecco perché Satana è il grande ingannatore, è il falsario per eccellenza. E abbiamo anche spiegato l'immagine bellissima che noi riportiamo in copertina, un capolavoro del Masaccio, e che sta a indicare anche questa copertina, questa immagine in copertina sta a indicare anche come, soprattutto grazie al giro del Masaccio, sta a indicare come ci sia una tradizione molto forte nell'indicare in Satana l'ingannatore. Infatti viene ritratto il momento del peccato originale, quando Eva cerca di convincere Adamo, e il serpente sopra la testa di Eva, c'è il serpente che ha la testa esatta di Eva invece che la testa del serpente. E qui indica un altro aspetto molto importante del falsario: è un falsario che si nasconde. Satana si nasconde, non opera mai all'aperto, si nasconde sempre dietro le cose, dietro gli avvenimenti, dietro gli altri. E naturalmente, cari amici, la grande grazia che noi chiediamo a Dio, e che è anche l'obiettivo di questo libro, è di smascherarlo. Questo è l'obiettivo di questo libro. Questo non è un libro su Satana, questo è un libro contro Satana. Ed è, credo, non so se esistono i libri contro Satana, sinceramente, a meno che io conosca, recentemente non è mai stato scritto un libro contro Satana. Sono stati scritti libri su Satana per dire che non c'è, o comunque che è un povero diavolo innocuo, o comunque, cioè libri a favore di Satana. Oggi sono stati scritti anche da teologi, anche recentemente, e anche, diciamo così, con recensioni su riviste e giornali cattolici. Sono stati scritti libri a favore di Satana, in realtà. Perché? Perché lo presento come un povero diavolo, chissà se c'è, chissà se non c'è, ma cosa fa, ma in fin di conti, ma sì, Satana è il male che facciamo noi, eccetera, no? I libri scritti su Satana sono molto pericolosi, perché più delle volte sono libri a favore di Satana. Perché? Perché non lo smascherano. Questo libro, libro contro Satana, non perché, cari amici, noi stiamo qui a parlare male del demonio, non c'è bisogno di parlare male del demonio. Del demonio non bisogna parlare male, bisogna farlo vedere così com'è, perché questo è il vero problema, di scoprirlo. E la vera lotta contro il demonio consiste nello scoprirlo, nel mostrarlo, nello smascherarlo. Questo è un libro contro Satana, non perché se la prende con la lancia in resta nei confronti del demonio, ma perché cerca di smascherarlo. Come cerca di smascherarlo? C'è un solo modo, cari amici, per smascherare Satana, ed è la luce di Dio. La luce di Dio che ci viene dalla vita dei santi, indubbiamente, ma che ci viene soprattutto dalla Sacra Scrittura, dell'insegnamento della Chiesa. Allora, siccome oggi c'è una grande opera di difesa di Satana, in quanto lo si minimizza, si dice che è un povero diavolo, che c'è ma forse non c'è, ma se c'è laggiù all'inferno, ma sì, ma cosa vuoi che sia, eccetera, eccetera, no? Siccome oggi c'è una grande opera di difesa di Satana, in realtà, data parte da questo mondo che è sotto il suo potere, cosa potete aspettarvi, cari amici? Oggi ritengo che la cosa più urgente sia quello di smascherarlo. Perché questa opera di smascheramento del falsario è più che mai urgente oggi? Perché, cari amici, lui è il nemico, non è solo l'avversario di Dio, è il nemico dell'uomo. Gesù l'ha chiamato menzognero e omicida fin dal principio. Il falsario è colui che inganna l'uomo per distruggerlo. Le frasi di Gesù mi hanno prese tutte sul serio, dalla prima all'ultima, cari amici. Non vedo per qual motivo io non dovrei prendere sul serio le frasi di Gesù e prendere sul serio le frasi di Pinco e di Pallino. Io le frasi di Pinco e di Pallino non le prendo sul serio, ma prendo sul serio le frasi di Gesù e del Magistero della Chiesa. Allora, se Gesù dice che è menzognero e omicida, significa, in parole povere, in parole semplici, in parole immediate, che il falsario è colui che ci inganna per ucciderci, per distruggerci già in questa vita e per darci la sua vita, cioè la morte eterna nell'aldilà. Queste sono le parole di Gesù, menzognero e omicida fin dal principio. Ecco perché Satana fa smascherato, perché è omicida. Lui inganna per distruggerci e distruggerci eternamente, per cui l'opera di smascheramento della serpe, della malefica serpe, smascherarla soprattutto, perché lei agisce attraverso gli uomini, attraverso la società, attraverso le cose degli uomini, attraverso le attività degli uomini, è profondamente presente in ciò che è il piacere, il potere, la propaganda, ovunque è presente con la sua malefica capacità di confondere e di ingannare. Perché lo fa? Lo fa perché vuole costruirsi un suo regno, il regno della morte, il regno della disperazione, e naturalmente, siccome vuol dominare al posto di Dio, siccome vuol regnare al posto di Dio, siccome vuol fare l'antidio, è chiaro che si dà da fare per avere il maggior numero di sudditi o di schiavi ai suoi ordini. E noi vediamo, cari amici, guardiamoci in giro, vediamo che non son poche coloro che lavorano per il demonio o che sono irretiti dal demonio, non sono pochi, cari amici, perché è chiaro che il regno del male ha una sua forza per quel consenso che gli danno gli uomini. Cioè la forza di Satana, quando la regina della pace dice che Satana è potente, è forte di quella forza che gli diamo noi. Allora, questo è un libro, dunque, abbiamo detto e lo ribadiamo, un libro contro Satana, perché ha come obiettivo di smascherarlo. L'opera di smascheramento verrà soprattutto attraverso l'analisi dei testi biblici, soprattutto dei testi biblici delle due tentazioni, quella del primo Adamo e quella del secondo Adamo Gesù Cristo, perché attraverso questi testi biblici noi abbiamo la grande grazia da parte di Dio di comprendere le insidie del demonio. Guardate, cari amici, che qui non parliamo di un argomento di poco conto, qui parliamo di un argomento centrale della fede cristiana, perché la vittoria di Cristo su Satana è il cuore stesso del Vangelo. La vittoria del potere di Cristo sul potere del maligno è l'annuncio fondamentale del Vangelo. E non è un caso che sia l'Antico Testamento, sia il Nuovo Testamento, si aprono col confronto del primo Adamo con Satana, che vide Adamo soccombente, e del confronto del secondo Adamo con Satana, cioè Cristo, che ha visto Cristo vincitore. Quindi il fatto che questo confronto sia all'inizio dei due testamenti sta a indicare che siamo di fronte a un tema centrale. Adesso entriamo nel primo capitolo, cari amici, intitolato La vita è una lotta. E questo capitolo ha un obiettivo molto preciso, e cioè far comprendere che il tempo della vita che ci è dato, cioè bisogna capire il tempo della vita, cioè il tempo della vita che ci è dato non è una passeggiata, non è una vacanza, è un tempo di lotta, è un tempo di lotta. Cioè questa vita è veramente un tempo di lotta, la posta in palio è il nostro destino eterno. Per cui, cari amici, affrontiamo la vita col piede giusto, con la mentalità giusta. Non è una vacanza, è una traversata, è una grande traversata, una traversata pericolosa la vita. Con tanti nemici, ma alla radice c'è un grande nemico, colui che vuole perderci eternamente. Dunque vediamo, cari amici, questa presentazione della vita umana, che è una grande lotta, che ha in palio la salvezza eterna della nostra anima. In questa lotta noi abbiamo armi formidabili, che sono la grazia di Cristo, la protezione di Maria, ma abbiamo nemici altrettanto formidabili, che comunque possiamo vincere, e cioè sono il mondo, la carne e il maligno. L'esito finale di questa lotta è la salvezza eterna della nostra anima. Per cui, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1022, al termine della nostra vita ci sarà il giudizio particolare, che alla conclusione del quale l'anima nostra entrerà immediatamente o nella beatitudine eterna, oppure si dannerà immediatamente per sempre. Questo è l'esito della lotta, come vedete, un esito irreversibile, assoluto, un esito per il quale bisogna, per il buon esito del quale bisogna lavorare. E adesso affrontiamo il primo capitolo, il primo paragrafo del primo capitolo, dove intitolato Il Regno dei Cieli si conquista combattendo. Cioè, e qui voglio un po' commentare quella frase della popolare che dice che in paradiso non si va in carrozza. Il paradiso certamente lo si conquista, cari amici, ci viene concesso per grazia, però è come se ci venisse buttata una corda in fondo al burrone, un salvagente in mezzo all'oceano. Cioè, dobbiamo comunque attaccarci alla corda, attaccarci al salvagente, se no non ci salviamo. Quindi c'è da parte nostra un invito alla lotta, e questo invito alla lotta fa parte proprio dei Vangeli. Allora, secondo il nostro metodo, leggiamo e facciamo qualche breve commento. Per chi avesse già il libro, siamo già a pagina 7. Il cristianesimo, scrivo, è stato fin dall'inizio una religione militante, ma non militante come l'Islam, dove c'è la guerra santa e c'è la milizia vera e propria, c'è la milizia spirituale nel cristianesimo, contro appunto i nemici, e il nemico fondamentale è il demonio, che poi si serve nel suo combattimento continuo della nostra carne caduta, decaduta, ferita, e del mondo, che spesso è alleato del maligno. Dunque il cristianesimo è stato fin dall'inizio una religione militante, ma non nel senso in cui lo è l'Islam, che prevede la guerra santa contro gli infedeli e promette il paradiso a chi cade in battaglia. La guerra del cristiano è di carattere morale e spirituale, ma non per questo meno impegnativa e importante. Rifletti, caro amico, sulla vita di Gesù. Essa è stata esposta fin dall'inizio a pericoli di ogni genere. Il potere dell'uomo carnale si è sentito minacciato dalla sua venuta e ha cercato con prontezza e astuzia di eliminarlo. Cioè, quanto sia ostile il mondo a Dio lo si è visto dall'accoglienza che è stata fatta a Gesù Cristo. Cioè, le tenebre, dice San Giovanni, non hanno accolto la luce. Cioè, il figlio di Dio qui su questa terra è finito in croce. Questo sta a indicare, basterebbe questo fatto, cari amici, per comprendere quanto sia ostile il mondo sotto il potere del maligno, quando sia ostile a Dio. Ma naturalmente proprio la croce ha significato ha significato il colpo mortale per il regno delle tenebre. Però il fatto che Dio sia venuto in questo mondo e sia stato crocifisso sta a indicare l'ostilità di questo mondo peccatore nei confronti di Dio. Rifletti, caro amico, sulla vita di Gesù. Essa è stata esposta fin dall'inizio a pericoli di ogni genere. Il potere dell'uomo carnale si è sentito minacciato dalla sua venuta e ha cercato con prontezza e astuzia di eliminarlo. I 3 anni della sua vita pubblica lo hanno visto passare attraverso le insidie quotidiane dei nemici e dei falsi amici, fra i quali alcuni discepoli. E se noi leggiamo il Vangelo, cari amici, guardate che c'è da rimanere stupiti della ostilità crescente del mondo nei confronti di Gesù. Perfino i suoi parenti all'inizio vanno a prenderlo per riportarlo a casa perché pensavano che fosse pazzo. Poi l'ostilità, soprattutto da parte delle autorità politiche e religiose, cresce in un modo tale da diventare perfino satanica, da diventare omicida. Vogliono distruggerlo a tutti i costi. La rabbia satanica nei confronti della santità, nei confronti di Dio, lo si vede dalla ringhiosa reazione degli scribi, dei farisei, ma non solo di loro, di tutti coloro che sono associati al potere delle tenebre, tutta la congrega, da Erode a tutti quelli che, dai flagellatori, a tutta questa rabbia nei confronti di Cristo. È tutta rabbia satanica. È tutta rabbia satanica nei confronti della santità, nei confronti di Cristo. Pensate, il demonio che cerca di insinuarsi anche nel collegio apostolico prende Giuda, lo fa suo alleato, entra in lui per portarlo al tradimento. Pensate l'odio satanico nei confronti di Cristo. Cari amici, tutto questo ci deve aprire gli occhi. Come medesimo odio satanico nei confronti di Cristo, Satana ce l'ha anche contro di noi. ma come ha cozzato contro Cristo e si è rotto le corna, così deve avvenire anche per quanto riguarda noi che in Cristo siamo vincitori del maligno. Quindi i 3 anni della sua vita pubblica lo hanno visto passare attraverso le insidie quotidiane dei nemici e dei falsi amici, fra i quali alcuni discepoli. Il principe di questo mondo, cioè il maligno, non gli ha mai dato tregua. Cioè ha perseguitato Cristo fin dall'inizio con, pensate, la strage degli innocenti, orchestrata da Satana, da chi volete che sia stata orchestrata. Questa persecuzione fin dall'inizio nei confronti di Gesù Cristo, se non dal potere delle tenebre. Il principe di questo mondo non gli ha mai dato tregua, lo ha affrontato direttamente all'inizio della sua missione e non ha mai cessato, ben nascosto nei cuori increduli, di perseguitarlo e di sedurlo. Cioè Satana nei confronti di Cristo ha usato le medesime armi che usa nei nostri confronti, cioè la seduzione, che non è consistita soltanto nel momento delle tentazioni in cui Satana ha affrontato Cristo direttamente, ma anche successivamente, quando la folla voleva fare Cristo re, gli applausi, la gloria, il mondo, le sue ricchezze, i suoi onori, i suoi trionfi, i suoi battimani, la seduzione di Satana. Satana li seduce con i suoi falsi amici, con i suoi falsi protettori, con i suoi falsi benefattori. Non riuscendoti a sedurre, ti attacca fino a puntare alla tua eliminazione. Ma naturalmente questo è accaduto per Cristo perché così il Padre ha voluto. Ma quando il Padre dice a Satana basta, nulla può fare nei tuoi confronti. Dunque lo ha affrontato direttamente all'inizio della sua missione e non ha mai cessato, ben nascosto nei cuori increduli, di perseguitarlo e di sedurlo. Tu li senti subito i cuori dove c'è Satana, no? C'è sempre dentro una rabbia, un odio, un'astuzia, una falsa adulazione, no? Si vede che non c'è la pace, non c'è la sincerità, non c'è la luce. Lo senti il sibilo del maligno quando è nei cuori di chi ti adula, di chi ti dei falsi amici, con la bocca benedice e col cuore maledice. Lo senti il sibilo del serpente nel cuore degli uomini, che poi viene sempre a galla, crucifige, ammazzalo. La passione di Cristo, come ci spiegano bene i Vangeli, cari amici, è incomprensibile senza la regia di Satana. Il Verbo incarnato e l'angelo ribelle si sono affrontati nella battaglia più tremenda che ci sia mai stata al mondo. Cioè la passione di Cristo è una battaglia fra Cristo e Satana. E Cristo ha vinto offrendosi in sacrificio. L'orgoglio della creatura e il suo odio nei confronti del Creatore hanno avuto nei giorni della passione la loro massima espressione. La ferocia di Satana, la sua perfidia e il suo potere tenebroso si manifestano proprio nel momento in cui l'amore di Cristo per noi giunge al suo culmine. Cioè la passione di Cristo è un libro di una grandezza eroica, una grandezza drammatica, perché lì c'è il grande duello. Nella passione di Cristo c'è il grande duello e si esprime, le tenebre e la luce si esprimono compiutamente. Cioè la luce che è Cristo si manifesta nel sommo amore, le tenebre sataniche si manifestano nel sommo odio, il sommo amore si manifesta in Cristo e in Maria, l'odio satanico si manifesta nella ferocia con cui i persecutori di Cristo l'hanno portato alla morte. Quindi la passione è il momento in cui si sono affrontati in un grande duello, non la morte e la vita, o se vogliamo, la morte e la vita vanno intese, la morte nel senso dell'odio, la vita nel senso dell'amore. Nella passione di Cristo si sono affrontati l'amore del Verbo incarnato e la ferocia di Lucifero. Ha vinto l'amore. Quindi la ferocia di Satana, la sua perfidia, il suo potere tenebroso si manifestano proprio nel momento in cui l'amore di Cristo per noi giunge al suo culmine. La vittoria di Cristo su Satana è quella dell'amore sull'odio, della verità sulla menzogna, del bene sul male. Quindi Cristo è il grande combattente, cari amici, non è il cristianesimo, credetemi, non è pantofolaio, Cristo è il grande combattente, ha combattuto la ferocia dell'odio con l'amore. Questa è la vera battaglia, cari amici, sapete, della vita: far prevalere comunque sempre l'amore. Non ha lottato contro la carne, come invece deve fare ognuno di noi che è interiormente indebolito dal peccato di origine, però ha dovuto combattere contro il mondo e contro il demonio. Dopo il peccato di Adamo, l'umanità era caduta sotto il potere del maligno, che ne era divenuto il principe tenebroso. Cristo entra nella casa del potente, cioè in questo mondo, il potente è Satana, e lo lega per riprendersi ciò che è suo, confronta Matteo 12,29. Con la sua morte, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel numero 1708, ottiene la vittoria definitiva sul potere delle tenebre. Quindi non comprenderebbe la redenzione, e non comprendono la redenzione, comprendono un bel niente, sono dei ciechi coloro che pensano di poter tenere in piedi il cristianesimo e di tenere in piedi soprattutto il concetto di redenzione cercando di cancellare la presenza del maligno. Ma se è Cristo stesso che affronta all'inizio della sua vita Satana, se è Cristo stesso che dice che lui è entrato nella casa del forte, lo ha legato, lo ha sbattuto fuori, ora il principe di questo mondo sta per essere sbattuto fuori, se è il Catechismo della Chiesa Cattolica che dice con la morte in croce Cristo ha distrutto il potere del maligno, vedi il numero 1708, come si fa a parlare di redenzione, di salvezza di Cristo senza alludere all'avversario? Che non ci sarebbe, ma sì, sono le forze del male, sono qua, sono là. Allora, dov'è la vittoria di Cristo? Con chi ha combattuto Cristo? Contro chi ha combattuto Cristo? Vedete quindi come lo stesso concetto di redenzione, così come presentato dal Nuovo Testamento, è incomprensibile se tu togli l'avversario, colui che ci teneva prigionieri. La stessa parola redenzione vuol dire ricomprare il riscatto. Chi sono i banditi a cui Cristo ha pagato il riscatto? Il bandito a cui Cristo ha pagato il riscatto, redimere, vuol dire dare il denaro, gli ho dato il sangue, per salvarci. Il bandito è Lucifero. È a lui che ci ha strappato. Da chi ci ha liberati? Da Satana e da tutto ciò che Satana rappresenta, cioè la morte, il male, la schiavitù, tutto ciò che è suo, cioè tutto ciò che c'è di negativo e che da lui viene. Ecco, cari amici, dunque, qual è stata la vita di Cristo, la vita di un combattente. Tuttavia, non devi pensare che la lotta sia una caratteristica esclusiva della vita di Cristo. Lui ha profetizzato ai suoi seguaci persecuzioni e afflizioni. Tutti gli apostoli hanno ricevuto la corona del martirio, cioè il cristianesimo è l'unica religione cui il fondatore e tutti i suoi amici, cioè Cristo e gli apostoli, sono stati ammazzati. Tutti ammazzati, da chi? Ma da chi Satana aizzava? Perché nelle altre religioni il fondatore e tutti gli iniziatori non sono martiri? Perché non sono stati ammazzati nelle altre religioni? Mentre nel cristianesimo Cristo e tutti i suoi collaboratori sono stati ammazzati, perché? Perché c'è l'odio satanico, perché Cristo ha preso Satana per le corna e l'ha distrutto. Allora di qui la rabbia satanica, che ha comunque la possibilità di agire fino alla fine del mondo. E Satana che ha aizzato gli uomini dal martirio di Cristo è il martirio degli apostoli, come ha aizzato Satana le forze del male contro la Chiesa, che ha avuto più martiri in questo secolo che nei primi secoli del cristianesimo. E così è stato per molti cristiani lungo il corso dei secoli. Ma anche quelli che hanno condotto una vita ordinaria, e quindi non sono martiri per spada, hanno dovuto combattere la buona battaglia per conservare la fede e per guadagnare il regno di Dio. Cioè tutti noi, cari amici, ce ne rendiamo conto che ogni giorno, per stare sulla via del bene, dobbiamo combattere. Combattere. Il bene è una conquista. Dobbiamo combattere contro la carne, il mondo e il maligno, vedremo. C'è qualcosa di falso nel modo di concepire e di vivere la fede in molti cristiani del nostro tempo. La religione è vista come un'esperienza esclusivamente consolatoria. Non nego che si possano trovare una grande consolazione in una vita cristiana autentica, ma essa è il frutto di un impegno perseverante sulla via del bene. Cioè, è inutile, cari amici, che noi ci proponiamo di andare in paradiso in carrozza. Non si va in paradiso in carrozza. Perché? Perché la via del bene richiede la battaglia quotidiana. Una via stretta, come dice Gesù. Ecco perché pochi la percorrono. D'altra parte Paolo VI ebbe un'intuizione molto intelligente quando disse che il cristianesimo non è facile, però è felice. Molti poi sono pronti a scusare il disordine morale anziché combatterlo. Quanti preti, anche suore e religiosi, sono pronti a mettere la foglia di fico sul disordine morale e chiudere gli occhi anziché combatterlo. Il paradiso, si sottolinea oggi anche nella predicazione, anche quella che si fa qui a Radio Maria al mattino, è promesso a tutti, ma si tace sulla possibilità della perdizione eterna. Su quel punto lì, che è tipico di Cristo, si tace. Si fa appello alla divina misericordia, ma per continuare in una situazione di peccato. Tanto poi c'è la misericordia. E per quanto riguarda Satana, com'è la mentalità del nostro tempo? Sul nemico si tace, oppure si contano le barzellette? Guardate se Cristo e gli apostoli contano le barzellette sul demonio. Sul nemico si tace come se non esistesse. La maggior parte dei libri su Satana scritti in questo secolo sono libri a favore di Satana perché ne sminuiscono la pericolosità. Tacciono sulla sua pericolosità. Sul nemico si tace come se non esistesse. Il carattere militante della vita cristiana si è come dissolto. Ma non per questo i nemici dell'uomo dormono. Essi sono più agguerriti che mai. Di fronte all'uomo disarmato e impreparato al combattimento, il loro compito è divenuto facile come non mai. Il pericolo per le anime è gravissimo. Cari amici, noi abbiamo abbassato le armi e il nemico fa strage. Eppure Gesù ci aveva avvertito, con un'espressione misteriosa ma ricca di forza e di significato, egli aveva detto: «Il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono». Nessun cristiano, finché sarà sulla terra, cari amici, potrà considerarsi in congedo. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso Il Palestario di Padre Livio, edizioni Sugarco.